Lettera inviata a Roma dalla città di Strasburgo, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 10 gennaio 1534. All'onorandissimo e reverendissimo signore mio, Giovanni Pietro Carafa. Signore illustrissimo, è giunta oggi la missiva di vostra signoria che attendevo quanto prima. Inutile infatti nasconderci che il tempo è fattore essenziale in questo grave frangente, e il nulla osta della signoria vostra non è per me motivo di minore preoccupazione e premura, poiché ciò che occorrerà tentare avrà bisogno di tutta la protezione provvidenziale dell'Altissimo per andare a buon segno. Permettete dunque che esponga alla signoria vostra ciò che credo sia necessario intraprendere a breve contro la pestilenza anabattista. Innanzitutto, mio signore, lo stato dei fatti. L'anabattismo si diffonde sotterraneamente. Non ha un unico capo che sia possibile spiccare dal collo per non pensarci più. Non ha un esercito da sconfiggere in battaglia. Non ha confini veri e propri. Si sparge ora di qua, ora di là, come fa il morbo nero quando, saltando da una regione all'altra, miete le sue vittime senza distinzione di idioma o stato, sfruttando il veicolo degli umori corporei, del fiato, del lembo di una veste. Degli anabattisti sappiamo che prediligono i ceti meccanici, ma si può ben dire che costoro si trovano dovunque, e quindi non v'è confine che possa essere sicuro. Né milizia, né esercito, infatti, riesce a bloccare l'avanzata di questa invisibile armata. Dunque, come riuscire ad arrestare il pericolo che minaccia la cristianità tutta? Quante volte, signore mio munificentissimo, mi son posto questa domanda nelle ultime settimane. Tanto mi sono arrovellato la mente, arrivando quasi alla convinzione che in questo frangente il servo della signoria vostra non avrebbe potuto essere di alcun aiuto al suo signore. Dio voglia che mi sbagliassi e che ciò che mi accingo a proporre trovi buona accoglienza presso di voi. Ebbene, io credo che la soluzione ci venga suggerita dai medesimi untori. Gli anabattisti stessi ci indicano il modo di colpirli con efficacia. Se infatti il mio signore tornerà indietro con la memoria alle faccende che dovette sbrogliare 10 anni or sono, all'epoca della guerra contadina, avvalendosi di questo modesto servo, ricorderà che per circuire il fanatico Thomas Münzer fu utile entrare in familiarità con lui, fingere di stare dalla sua parte, perché potesse più facilmente ostacolare Lutero prima, come era nella sua natura, e sprofondare all'inferno poi, quando ormai rischiava di mettere il mondo a rovescio, nonché di aiutare senza volerlo l'imperatore contro i principi tedeschi. Per quanto sia convinto che la memoria di quei momenti nella signoria vostra sia assai vivida, permettete a questo servo di ricordare che Thomas Münzer era sì uomo perfido, guidato da Satana, ma anche intelligente e scaltro, dotato di ascendente sul volgo e capacità oratoria. I nostri anabattisti, che altro sono se non tanti Münzer, solo di dimensioni minori? Anche tra di loro sembrano esserci personalità più forti, guide spirituali, come è il caso di questo Bernard Rothmann, ma anche di altri, i cui nomi forse non direbbero nulla alla signoria vostra, ma che corrono in lungo e in largo per queste terre, quelli di Melchior Hoffmann e Jan Matthys, prima fra tutti. Dunque, il mio consiglio è che, innanzitutto, sia necessario riuscire a sventare la loro apparente ubiquità. Occorre riuscire, cioè, a radunare tutti i loro capi, tutti i Münzer, i coniatori, gli untori, in un unico luogo, tutte le mele marce in un solo paniere. Ma in questo osserviamo pure d'essere già favoriti, poiché, come la signoria vostra ha potuto apprendere dalla mia precedente missiva, verso la città di Münster affluisce non soltanto l'attenzione di tutti gli anabattisti, ma anche una folla di persone, famiglie intere, che con armi e masserizie vanno a trasferirsi là dall'Olanda e dall'impero. Münster è diventata la terra promessa degli eretici più impenitenti. Ebbene, io credo che qualcuno potrebbe facilmente unirsi a tale flusso ed entrare in città. Costui dovrebbe poi acquisire confidenza con i capi della setta, fingere amicizia per riuscire a influenzarne l'agire senza mettersi troppo in luce, favorire l'affluenza di quanti più anabattisti è possibile. Una volta raccolte le mele marce, la prospettiva di poter spazzare via gli elementi più pericolosi in un colpo solo basterà di per sé a far alleare il Langravio Filippo e il Vescovo von Waldeck, protestanti e cattolici, contro i più pericolosi sobillatori. Or dunque, poiché l'attuazione di un tale piano investirà soltanto una singola persona, ovvero colui che si recherà sul posto, ritengo naturale che chi propone l'azione sia in questo caso anche colui che l'esegue. Ecco perché sono in partenza alla volta di Münster, con l'intenzione di prelevare una considerevole cifra presso la filiale dei Fugger di Colonia e portarla in dote agli ignari sposi anabattisti. Poiché mi accingo ad agire in clandestinità, sarebbe importante che io potessi contare su una raccomandazione di vostra signoria presso il vescovo von Waldeck e che questi fosse informato della mia presenza in Münster e del fatto che lo contatterò quanto prima per pianificare il da farsi. Una volta giunto a destinazione, mi affretterò a dare notizie più dettagliate su ciò che accade lassù. Per ora non mi resta che rimettermi alla volontà di Dio e alla sua protezione, sicuro che la signoria vostra vorrà menzionare questo umile servo nelle sue preghiere. Bacio le mani di vostra signoria. Di Strasburgo, il giorno 10 gennaio dell'anno 1534. Il fedele osservatore di vostra signoria, Q.